9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano di dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Benvenuto nella nostra felice famiglia di correntisti. Ridammeli, ridammi i miei due pezzi. Michael, comportati bene. Per favore, glieli ridia. Lascia. Non glieli ridia, ridammeli. Fermi, vi dico. Lascia, state buoni. Ridoglio il mio denaro. Che sta succedendo? La banca non vuole restituire il denaro. Ma io rivoglio il mio. Si muova, giovanotto, tutto il denaro del mio conto. E mi dia anche il mio. E il mio. Fermate i pagamenti. È con questo brano tratto da Mary Poppins che evochiamo, scusate la metafora abusata fin insomma, dalla metà dell'Ottocento, che evochiamo questo spettro che si aggira per l'Europa, quello di una bank run, di una fuga dalle banche, che naturalmente non sta avvenendo. C'è stato un tentativo a Cipro, gente che si affollava davanti ai bancomat, le banche restano chiuse per il momento dopo le decisioni di sabato notte del Consiglio europeo, la lunga trattativa che ha portato alla decisione di che insomma i cittadini ciprioti, e non solo loro, perché nelle banche cipriote, come già stato ampiamente raccontato, ci sono soldi che vengono da una serie di luoghi del mondo, perché Cipro è una sorta di paradiso fiscale e legale nel mezzo dell'Europa, in particolare arrivano dalla Russia. Con questo Consiglio europeo notturno si è deciso che i cittadini ciprioti o comunque i detentori di conti correnti avrebbero partecipato al salvataggio, se così vogliamo chiamarlo, di Cipro, appunto con un prelievo forzoso dai conti correnti. A testimonianza del delirio nel quale si sta svolgendo la vicenda, nel delirio politico nel quale si sta svolgendo la vicenda, dopo che sabato sera si è usciti con questa decisione che prevedeva un prelievo del 6,75% anche per i conti sotto i 100.000 euro, ieri l'Eurogruppo ha detto che no, insomma, che vanno salvaguardati i conti sotto i 100.000 euro. Il Parlamento cipriota si appresta naturalmente a decidere mentre le banche rimangono chiuse. Due i commenti sui giornali oggi da segnalare. Il primo è il vuoto attorno all'euro sul Sole 24 Ore, firmato da Adriana Cerretelli, che saluto. Buongiorno Adriana. Buongiorno. Editorialista appunto del Sole 24 Ore, dal quale c'è intanto una frase, cita un banchiere europeo, Adriana Cerretelli, dice: ogni volta fanno peggio, è una decisione grottesca. L'altro è sulla Stampa, firma di Mario De Aglio, scrive tra le altre cose: con il caso di Cipro è appropriato domandarsi se abbia ancora senso un'Europa aggrappata soltanto alla moneta che non sa più guardare avanti, mentre una parte importante del continente sta vivendo una decrescita sempre più infelice. Così Mario De Aglio, che tra l'altro scrive da convinto europeista. Emma Bonino, buongiorno. Buongiorno. Ex vicepresidente del Senato e stata commissario europeo. Partirei da lei e voglio capire come giudica dal punto di vista politico questa vicenda. Cioè, noi siamo arrivati ad un punto nel quale è stata ritenuta verosimile, per un momento, almeno viene ritenuta verosimile, se non vera è ritenuta verosimile, il fatto che la Germania abbia chiesto addirittura un prelievo forzoso sui depositi del 40%, poi naturalmente non ci si è arrivati. Insomma, è il segnale di qualcosa che evidentemente non funziona e torna a non funzionare dopo il caso greco. Ma quello che io penso, e non ho molto da aggiungere, devo dire, all'editoriale di Adriana Cerretelli, il problema a me sembra sempre lo stesso, e cioè che magari è pure finita la crisi dell'euro, ma invece continua a far furore la crisi nell'euro, perché al di là di tutte le varie contorsioni, di cui Cipro è l'ultima, si dirà che Cipro è un caso speciale, ma si disse già che la Grecia era un caso speciale, tutti sono speciali, eccetera eccetera, quello che è speciale e che regge tutte queste e provoca peraltro tutte queste contorsioni è che noi abbiamo una moneta unica, ma non abbiamo un tesoro e quindi siamo sempre a capo. Ora, in questi 2 o 3 anni si è cercato di mettere qualche cerotto, qualche pecetta, poi si dirà che erano passi straordinari per andare avanti, di straordinario abbiamo visto poco, e poiché non si vuole affrontare questo caso di fondo, perché la Germania, come avete detto, si rifiuta in qualche modo di guidare il nuovo passo verso un'Europa appunto federale o comunque politica e quindi con un tesoro e quindi capace di affrontare questi problemi, perché poi insomma in termini macroeconomici veramente la crisi Cipro non è una gran crisi, ma non lo era neanche quella greca, se per questo. Il problema è che la gestione che ne è stata fatta l'ha reso poi contagiosa nella voragine che abbiamo tutti sperimentato, e quindi mancando la struttura e nessuno volendola in qualche modo accelerare di una situazione per cui una moneta senza un tesoro federale non può esistere, ci troviamo tutte le volte di fronte a questa crisi nell'euro, con relativi casi speciali che poi speciali non sono, in una contorsione che assume però dei toni abbastanza grotteschi. Adesso non è solo appunto il 40% che poi è stato smentito, ma circolava pure l'idea una violazione persino di una direttiva europea, cioè quella che tutela i conti fino a 100.000 euro. Ora, tutto questo lascia veramente interdetti ed è difficile persino per un europeista come me, e suppongo anche come Adriana Cerratelli, continuare ad essere innamorati di questa Europa. E questo è il punto, e alla fine, proprio perché la Germania applica ad altri ricette che non ha applicato a se stessa, perché è vero che nel 2002 il malato d'Europa d'epoca fece questo grande programma d'austerità, però nel 2003 violò il patto di stabilità esattamente per avere un po' di soldi per accompagnare quelle misure di austerità, mentre invece questo non viene ovviamente proposto per gli altri paesi. La realtà vera è che qui non è più neanche un rischio, ma se continuiamo così è che di austerità muoiono i paesi e muore anche il progetto europeo. Quindi lei vede a questo punto, visto anche come si sta comportando la Germania, che assume un ruolo centrale nelle decisioni e poi si rifiuta di assumere la leadership del continente, perché poi alla fine la sostanza è quella. Esattamente così. Perché il punto è quello. Lei vede a rischio il progetto europeo a questo punto? Ma io se lo vedo a rischio da parecchio tempo, e ripeto, mi si dice tutte le volte, ma le crisi poi l'Europa le supera con il metodo di Monnet, un passo alla volta, eccetera eccetera. Ho capito, ma intanto questo non è affatto automatico, e secondariamente il metodo Monnet era applicato e applicabile probabilmente ad un mondo che non c'è più. Il mondo che viviamo oggi è un mondo completamente diverso, che a mio avviso implica dei grandi passi in avanti, oppure il rischio reale, che a mio avviso si fa sempre più reale, di una disintegrazione del progetto europeo. Ora, io non penso che la Germania, come dire, abbia complottato per essere in questa posizione di grandezza, ma insomma in più non me ne importa niente. Rimane il fatto che oggi è l'economia più potente e che quindi col potere, come si dice, viene la responsabilità. E quindi la responsabilità di guidare, che gli piaccia o no, che l'abbia complottata o no, che non, ma questo è veramente irrilevante, ma rimane il fatto che con più potere avviene più responsabilità, che la Germania, anche per ragioni elettorali e non so quali, comunque, e sicuramente per una visione veramente a cortissimo raggio, si rifiuta di esercitare, in buona compagnia ovviamente con i soliti, Inghilterra e quant'altro. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 9 in punto è l'hashtag su Twitter. Adriana Cerretelli, allora io prima, nell'anteprima della trasmissione, l'ho definita, forse non so, ho usato una parola forte, però per me è un delirio quello che è avvenuto negli ultimi 3 giorni, cioè trovare addirittura l'Eurogruppo che smentisce le decisioni del Consiglio europeo giusto due giorni dopo, nella fretta, cioè dopo che ti sei accorto che i mercati stanno reagendo male e che appunto la garanzia dei depositi sotto i 100.000 euro va mantenuta. Insomma, devo dire che sono molto perplesso ancora una volta dalle carenze politiche che vedo a livello europeo. Ma siamo tutti perplessi, ma lo siamo da tanto tempo, perché la gestione diciamo della crisi dell'euro purtroppo, secondo me, è stata fatta più diciamo in modo dogmatico, ma soprattutto con volontà punitiva verso i paesi che si sono trovati diciamo in difficoltà per diverse ragioni. Non tutte diciamo colpevoli, c'è stata anche la recessione che ha complicato le cose. E io trovo che appunto siamo partiti con l'idea, cioè sono partiti i tedeschi, perché volenti o nolenti sono il paese leader, con l'idea che il sud, secondo i soliti pregiudizi, era fannullone, sprecone, eccetera eccetera, che quindi andava punito, che il contribuente tedesco non doveva pagare per gli errori degli altri, ma semmai avvantaggiarsi degli spread e di tutto quello su cui la Germania ha marciato molto in positivo, guadagnando dalla crisi. E io direi che la vicenda di Cipro risponde alla stessa logica. In più Cipro è un offshore, è un paradiso fiscale, ha sicuramente delle ombre nel proprio pedigree, perché si sa che è crocevia di riciclaggio di denaro sporco, di traffico di armi, paradiso dei soldi più o meno puliti degli oligarchi russi, e quindi dagli al cipriota. Che sia il deposito russo, tanto meglio, ma se anche il normale cittadino, pace. Per cui io trovo che c'è veramente poca lungimiranza, non si impara dagli errori fatti, perché la Grecia è stata una tragedia, ma non perché il problema greco fosse un problema ingestibile. Il problema greco era un problema teoricamente marginale, è diventato ipercentrale. Però io vorrei dire che al di là, diciamo, di queste vicende che hanno rotto il tabù appunto del risparmio che va tutelato eccetera eccetera sotto i 100.000 euro eccetera, e che forse un domani porterà anche alla fine della libera circolazione dei movimenti dei capitali, perché secondo me se andiamo avanti così si arriverà anche lì. Dicevo che al di là di questo c'è secondo me uno sfarinamento dell'Europa, che non è tanto nella politica quanto nel comune sentire. Io trovo che questo assalto al depositi dei risparmiatori, dei normalissimi risparmiatori, rompa ulteriormente il contratto di fiducia tra l'Europa e i suoi cittadini, tra l'Europa e le banche, proprio quando si pensa che un'unione bancaria sia essenziale per sostenere l'euro. E tutto questo mi fa pensare che il progetto non sia più tenibile, perché è vero che la Germania non ha mire egemoniche in sé, ma è anche vero che la situazione è tale per cui la Germania spadroneggia in Europa. Ora, io sono sempre stato un europeista non convinta, super convinta, soprattutto perché nella globalizzazione, secondo me, senza l'Europa siamo tutti più o meno morti. Ma il problema è: quale Europa in questa situazione? Avendo una Germania che non ha più dei pesi e contrappesi intorno a sé, perché non sono più né la Francia né le istituzioni europee tutte asservite, allora con quale coraggio, sia pur nella consapevolezza che lo Stato nazionale non ha più senso, che va superato, eccetera, si può confidare a un paese che dimostra di essere troppo dogmatico, poco realista, irragionevole, diciamo, la sovranità sui nostri modelli di sviluppo, senza un minimo di contraddittorio, senza un minimo di democrazia, perché non ci dimentichiamo che la Germania, a prescindere dai disastri fatti in Grecia e ora a Cipro, ma è anche il paese che non ha esitato a dire: beh, la democrazia non funziona, piazziamoci tecnici. Ora, per questa strada dove stiamo andando, sì, quale tipo di consenso popolare ci può essere un progetto del genere. A me sembra che in questo modo tu, Adriana, stia mettendo il dito nella piaga, ed è un problema che sinceramente nel mio piccolo, per carità, considero centrale anch'io. Cioè, visto quello che sta succedendo, poi non ci stupiamo, e se ne parlava già ieri, no, del 7% di Alba Dorata, se vogliamo anche del 25% del Movimento 5 Stelle, no, Bonino? Sì, che per il momento a me pare che nell'ultima in questa esplosione elettorale è stata soprattutto, diciamo, un'esplosione, una pernacchia, si fa per dire, liberatoria, rispetto, a mio avviso, soprattutto alla situazione partitica italiana con eccetera eccetera eccetera. Ma se andiamo avanti così, è chiaro che sotto traccia ci sono già tutti gli elementi anti-euro, l'Italia è già fuori dall'euro, che si possono materializzare nei prossimi mesi e sicuramente determinare la prossima campagna elettorale nazionale o europea che sia. Ora, si potrà certamente continuare a dire che tutto questo è irresponsabile, e va bene, ma a me pare soprattutto irresponsabile il fatto che chi ne ha potere e poteri, responsabilità e quant'altro non si renda conto che persistere in questo modo così testardo e a corto termine in questo tipo di politica di assenza di democrazia e avanti di questo passo poi provoca effettivamente lo sbriciolamento di una attenzione al progetto europeo. Ora, ma vediamo anche semplicemente come è andato. Ed ogni giorno c'è un messaggio in questo senso. Oggi è Cipro, 2 settimane fa era l'accordo all'unanimità sul bilancio dell'Unione, che è un bilancio veramente, secondo me, vergognoso. Ad oggi c'è stato uno stop del Parlamento europeo, si riaprirà un negoziato e si vedrà, ma ogni settimana arriva un messaggio di questo tipo, che se poi questo è il messaggio che arriva, è molto difficile chiedere ai cittadini o a un europeista come me di continuare ad avere fede e fiducia nell'Europa. Quindi stanno loro stessi provocando lo sbriciolamento del progetto e un grande sentimento ormai contro questa Europa. Le devo segnalare, prima di salutarla, perché so che sì, ci deve salutare, grazie, le devo segnalare che c'è qualche ascoltatore su Twitter che, ascoltandola, dice, lancia l'hashtag Emma Presidente. Insomma, la vogliono Presidente della Repubblica, ascoltandola. Bene, grazie mille, lo ringrazio molto. Bene, ringrazio molto. Grazie, bene. Grazie Emma Bonino, grazie anche ad Adriana Cerretelli che ci deve salutare anche lei. Adriana, buona giornata. Noi riprendiamo tra un attimo, dopo la pausa, con gli ascoltatori. 9 in punto. Qualche tweet con l'hashtag 9 in punto, oppure potete scrivere direttamente a me se volete, Simone Spezia. Ci scrive Gianfranco Tomaselli, dice: quello che stiamo vivendo è il nuovo nazismo, svegliamoci prima che sia troppo tardi. Forse, insomma, messa così la trovo un po' esagerata. Mario Capozzo sottolinea un'altra questione importante che abbiamo solo accennato nella puntata di ieri, che è il tema dei rapporti geopolitici, cioè dell'importanza geopolitica di Cipro, ma in questo caso relativa alla Russia. Se la Russia si arrabbia, in realtà si è già arrabbiata con l'Europa per questa misura, come la mettiamo appunto per i rapporti commerciali e geopolitici? C'è sicuramente anche questo aspetto. Massimiliano nota, come molti che ci dicevano che l'euro era la nostra salvezza, oggi sono perplessi. Sì, lo sarebbe stato una salvezza se fosse stata l'Unione Europea un'unione tra pari. C'è anche da ricordare sotto questo aspetto, perché poi, insomma, è vero che l'Europa sta agendo in maniera tutt'altro che lineare, c'è anche da ricordare che noi abbiamo beneficiato di un dividendo dell'euro e che sono stati tassi bassi per molti anni rispetto alla nostra condizione finanziaria, che però non abbiamo sfruttato evidentemente per fare riforme. Saluto Dioniso Ciopei, consulente finanziario dalla Grecia. Buongiorno. Buongiorno. E che si occupa anche di vicende cipriote, però prima voglio sentire qualche ascoltatore. Marco ci chiama da Milano, buongiorno. Pronto? Pronto? Marco, buongiorno, eccoci. Ah, buongiorno, salve. Salve. Sì, volevo dire semplicemente questo, io mi occupo da tanti anni di export a Cipro e quindi sono abbastanza addentro alla situazione. Allora, è vero che Cipro è parzialmente anche un paradiso fiscale, però c'è anche tanta gente, imprese oltre ai cittadini, che lavorano normalmente in modo pienamente legittimo. Questa è l'ennesima dimostrazione che il politico, in questo particolare caso l'eurocrate, è anche stupido, perché ci sono delle incongruenze folli, ne dico solo una perché evidentemente non abbiamo molto tempo, sui conti correnti di tutta questa gente qua ci sono sia somme che sono al netto delle tasse, cioè quelle dei dipendenti, che somme che invece sono, diciamo, reddito d'impresa, quindi piccoli professionisti, agenti, rivenditori, piccole aziende. Allora cosa succede? Lo Stato preleva forzosamente col placet o con l'ordine dell'Europa la stessa percentuale di somma sia a chi ha un reddito netto, ha degli importi netti, e sia invece nei confronti di chi su quella somma lì poi dovrà anche pagare le tasse. Domanda da chiedere all'euro scemo a questo punto. Non ho un altro modo di... Io non sono euroscettico, sono sempre stato un euroentusiasta, però se devo essere governato da un euro scemo forse cambio anche atteggiamento. Ecco, volevo sapere anche magari dagli occhi su quanto preciso punto, cosa succede nel caso di un prelievo forzoso su chi ha delle somme che sono ancora da gravare delle tasse? Lo si tratta allo stesso modo o l'euro scemo non si è neanche posto il problema? L'euro scemo, questa la tagliamo e ce la conserviamo, come l'intervento dell'ascoltatore di Angelo che stiamo utilizzando tutte le mattine in questi giorni. Sentiamo anche Luigi da Como, buongiorno. Buongiorno a tutti, vorrei fare due considerazioni. La prima, condivido che siamo governati da euroscemi, non euroscemo uno soltanto. Sono per l'Europa, però non questa costruita sulle sabbie mobili. La seconda considerazione, che al di là di quello che è intervenuto su questa proposta di prelievi sui conti correnti, nessuno ha detto niente quando in Italia è stato portato l'IVA dal 20 al 21 e forse la porteranno al 22, se questo non è un prelievo forzoso su tutti, attenzione. Ecco, e seconda cosa, se un cipriota, mi piacerebbe sapere quante tasse paga rapportate al nostro 45%, anche se c'è un livellamento sulle tasse non farebbe male. E soprattutto se parliamo di riciclaggio di denaro sporco, non mi vengano a dire questi signori che pagando il 10% è uno scandalo, quando l'accordo che si sta firmando tra Italia e Svizzera prevede un prelievo del 35% sui capitali Luigi, su questa vicenda dell'accordo che si sta firmando con la Svizzera ci andrei un pochino cauto, insomma, sul fatto che si stia firmando soprattutto. Comunque, il tema sicuramente c'è. Dioniso Ciopei, il punto è esattamente quello. L'Europa in questo modo in realtà ha voluto colpire un luogo dove passa molto denaro anche di riciclaggio, no? È sicuramente così, nonostante sia inconfessabile, è evidente che la ratio di questa misura è che Cipro sia in realtà connivente con un sistema di riciclaggio del quale ha beneficiato in realtà tutto il paese, compresi quelli a cui faceva riferimento il vostro precedente ascoltatore, che non avevano nessuna relazione con delle attività illecite. E diciamo che col senno del poi Cipro non avrebbe dovuto entrare nell'Unione Europea, ma questo è facile da dire, non avrebbe dovuto entrare nell'euro, ma questo è facile da dire adesso. Qui adesso stiamo vivendo una realtà che si sviluppa a ritmi frenetici, Io ho tre televisioni accese su tre canali, ognuna dice delle cose diverse, per cui nessuno sa fino a questo pomeriggio alle 6 se questa misura sarà votata o se sarà proposta una contromisura alla quale parteciperà una gran parte dell'arco in Parlamento. Al momento attuale sembra di no, ed è per questo che c'è un grandissimo nervosismo, direi che c'è quasi panico, ecco. Voglio sentire qualche altro ascoltatore. Come avete capito, il tema è questo, quindi c'è anche una questione che appunto Ciopei ha ben sottolineato, che è quella che riguarda il riciclaggio. Detto ciò, Ciopei, poi però in questo modo lo snodo è che si va a colpire anche invece quei poveracci che due risparmi ce l'hanno molto semplicemente, insomma, si va a colpire anche il cipriota, il semplice cipriota, no? Come le ho detto, la presunzione è che il semplice cipriota, anche se... Non esista, no. È che anche il semplice cipriota in realtà abbia beneficiato di questa esplosione del settore bancario che poi in realtà ha tirato dietro l'immobiliare, che ha tirato dietro i consumi. Per cui se lei guarda, in realtà è molto difficile dire che c'è un cittadino di Cipro che in un modo o nell'altro non abbia beneficiato di questa cosa. Naturalmente quando si prendono delle misure del genere è ben noto che si fanno delle ingiustizie, ammesso che l'Unione Europea abbia titolo per fare giustizia di un ipotetico reato di riciclaggio, perché anche questo è dubbio. Massimo ci chiama da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Guardi, io non ho nulla in contrario di principio al fatto che un paese che chiede aiuto all'Europa, alla Comunità Europea, debba mettere dei soldi di tasca propria e ovviamente li prende dai propri cittadini, dai depositi bancari. Cioè, dove sta il problema? Il vero problema è che i politici nazionali di ciascun paese che ha problemi non hanno il coraggio di prendere azioni, di iniziative di tal senso e dicono è stata la Germania o l'Europa che ce l'ha chiesto. Lei non trova Massimo, scusi, è che un tipo di prelievo come quello che si è ipotizzato almeno sabato sia eccessivo, insomma, un 6,75% sotto i 100.000 euro. E poi dall'altra parte c'è l'altro grande tema, gli effetti politici, che a me sono quelli che preoccupano personalmente, gli effetti politici a lungo termine di questo, il rischio che questo generi una ribellione nei confronti dell'Europa. Ma guardi, io francamente sulla misura del prelievo se ne può parlare, ma dopo quello anche che ha detto il vostro ospite cipriota, ma Cipro che ci fa nella Comunità Europea con quel sistema bancario che ha? Grazie Massimo, sentiamo anche Paolo che ci chiama da Parma, buongiorno. Buongiorno, questa Europa a me piace sempre meno, le sue politiche economiche sono sbagliate e disoneste. Mi limito a far presente un dettaglio: Cipro chiede un prestito all'Europa, ma ai suoi cittadini porta via il denaro, non è che glielo restituirà. Qui a forza di portare via del denaro si impoverisce la popolazione. Cito come modello Prodi: quando si doveva entrare nell'euro si fece prestare Prodi denaro dagli italiani, ma poi lo restituì. Cioè, se fosse una emergenza momentanea e poi le cose andranno bene, si può chiedere un prestito ai cittadini e poi restituirlo, ma non fare dei prelievi come D'Amato, Monti, eccetera, Amato, e poi non restituire nulla. Sì, naturalmente c'è da considerare anche la dimensione del prelievo che fece Amato, che era dello 0,6% contro quello che viene ipotizzato adesso a Cipro. Giusto per far chiarezza su qualche altra dimensione, perché insomma ci stanno arrivando domande su questo tema. Il principio base che ha scelto l'Unione Europea, che in sé insomma potrebbe anche qualche aspetto di condivisibilità, se così vogliamo, è che ci debba essere un qualche tipo di compartecipazione da parte del paese ad un eventuale salvataggio. Il principio è sostanzialmente passato. Un salvataggio da 17 miliardi è, sarebbe stato un salvataggio sostanzialmente di dimensioni eccessive, pari al PIL della stessa Cipro, Un salvataggio di quel genere avrebbe comportato di fatto un debito del paese nei confronti dell'Unione Europea che avrebbe fatto schizzare il rapporto tra debito e PIL intorno al 150%, quindi una cosa sostanzialmente insostenibile. Questo giusto per dare qualche segnale. Poi naturalmente il tema è discutere su come viene effettuata questa compartecipazione del paese al salvataggio, che viene in queste ore definito bail-in, perché il bail-out è il salvataggio all'esterno, si parla di bail-in come una sorta appunto di salvataggio dall'interno, quindi in questo caso entrano in gioco i due elementi, sia salvataggio all'esterno che salvataggio dall'interno. 9 in punto. Allora, Dionisio Ciopei, voglio capire questo, posto che anche per le cifre che abbiamo citato poco fa e che ho citato poco fa era evidentemente necessaria una compartecipazione di Cipro al suo salvataggio e al salvataggio delle sue banche, secondo lei c'era un modo diverso per farlo questo salvataggio o insomma la strada era quasi obbligatoriamente quella? Direi che la strada fosse quasi obbligatoriamente questa, anche perché questo evento arriva in coda a una serie di altri salvataggi e perché il soggetto Cipro, come ho esordito, purtroppo è penalizzato da questa immagine. E tenga presente che quando si parla di banche cipriote in realtà si parla praticamente di Bank of Cyprus, che è la più grossa istituzione bancaria del paese, che capitalizzava 3 miliardi di euro in borsa prima del crollo e che per il 33% appartiene a un oligarca russo. Che è stato in prigione e che ha una fortuna, è un ex medico, è una fortuna fatta nel settore dei fertilizzanti. Ecco, ci sono molti aspetti che vivendo più vicino alla realtà qui in Medio Oriente rendono più comprensibile una decisione del genere. Sentiamo qualche altro ascoltatore, anche questo aspetto sicuramente interessante. Sentiamo qualche altro ascoltatore. Marcello dalla provincia di Alessandria, buongiorno. Sì, buongiorno, cerco di essere rapido e conciso. Io vorrei citare solo un dato di una mia fonte, di una mia lettura che faccio da anni, che è il professor Jeremy Rifkin, che parla di una cosa di cui sento parlare poco, ma che mi ha solleticato la memoria il discorso che lei sta facendo, che voi state facendo da due giorni di questa cosa allucinante di Cipro, cioè il fatto che la ricchezza è distribuita in un modo non equanime, e che questa ricchezza distribuita il professor Rifkin ancora negli anni 80 parlava del 20% del mondo che possiede l'80% della ricchezza e viceversa, il che ci porta a fare una considerazione, e oggi secondo me è molto più elevato, ma ci porta a fare una considerazione importante, perché avete parlato di quel patto di stabilità di tutela che è il discorso del depositi sotto i 100.000 euro. Ecco, io mi chiedo oggi nella nostra Italia o a Cipro, ma per carità io penso a noi, perché il nostro prelievo forzoso è già stato fatto, questa è già stata una realtà da noi negli anni 90. Oggi quanti sono sotto i 100.000 euro i depositi? Credo il 95%, e quindi andare a toccare qualcosa del genere senza mai tirare in ballo questa cosa, e dico la mia opinione personale, lunghezza, la patrimoniale, una patrimoniale del genere, voglio dire, sarebbe quello che potrebbe sanare un po' le cose, perché la gente le persone, il popolo, chiamiamolo così, non ha più la possibilità di finanziare, di mettere delle pezze, diciamo, al sistema che vive una crisi sistemica, appunto. Sì. Questa è la mia opinione. Sì, sì, se ho ben capito, Marcello, la posso riassumere con un altro, con un tweet che ci è arrivato. I 140 caratteri da questo lato sono, come dire, molto efficaci. Ci scrive su Tech: per colpire il riciclaggio, come nelle peggiori operazioni di polizia, si spara a tutti, buoni e cattivi, e quindi anche quelli, appunto, ampiamente sotto i 100.000. Luigi dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luigi e io volevo fare una domanda semplicissima che di solito non si fa mai. Cioè, che vantaggi ha il cittadino comune a rimanere in Europa? Tutto qua, questa è la mia domanda. Cioppei, guardi, la giro a lei. Io non, come dire, non entro in questo perché non, no, se no scateniamo un dibattito un finito troppo ampio, insomma, ecco. Guardi, io, lei sa che innanzitutto che fino a questo pomeriggio non si saprà nulla di definitivo. Sta prendendo molta forza, per rispondere a uno dei suoi ascoltatori, il fatto che il prelievo sopra i 500.000 euro sarà un prelievo molto più elevato, potrebbe essere del 15%. Tenga presente che a Cipro sono moltissimi i depositi sopra i 500.000 euro, perché Cipro praticava dei tassi elevatissimi e con questo fatto succhiava depositi dalla Russia e probabilmente anche dal resto d'Europa, e che in definitiva verrà data come compensazione delle obbligazioni nelle risorse energetiche di gassifere dell'isola di Cipro per chi manterrà i depositi per 2 anni. Per cui io credo che, siccome poi in realtà la maggior parte dei depositi sono degli amici oligarchi, amici di Robeleyev, che è così che si chiama il padrone della Bank of Cyprus, in realtà la situazione sia una dimostrazione di muscoli da parte della Russia per ottenere le condizioni migliori, ma in realtà io penso che la situazione si comporrà in una situazione di buon senso, per quanto la tragicità della situazione imponga, ecco. Sì, probabilmente avverrà questo, tutti i segnali sono in questa direzione, stanno arrivando in queste ore. Resta, devo dire, la grande perplessità per come si è arrivati a questo punto. Perplessità è dire poco, guardate, uso veramente un eufemismo. Insomma, sabato sera si è presa una decisione, il Consiglio europeo si è accordato con i governanti di Cipro, l'ipotesi era di una tassa del 6,75%, un prelievo forzoso del 6,75% dai conti correnti sotto i 100.000 euro e del 9,9% sopra i 100.000 euro. Nel frattempo le cose nel giro di 2 giorni sono cambiate, a testimonianza, devo dire la verità, della grandissima confusione che regna sotto il cielo. Abbiamo definito delirio ad inizio trasmissione. Forse la cosa più preoccupante è esattamente questo, cioè l'idea che effettivamente una direzione non ci sia. Grazie anche a Dioniso Cioppei per essere stato con noi, grazie a Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marcotulli in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani dopo il GR delle 9. Io non sono euroscettico, sono sempre stato un euroentusiasta, però se devo essere governato da un euroscemo, forse cambio anche atteggiamento. Però a me mi sembrano che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi! Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo! E io sono uno di quelli! Radio 24.